Asciuto pazzo padrò! Le finestre di Psicoradio, la radio della mente. In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. TSO ci fa discutere l'uso della forza, tutela dell'individuo e della società, sì, degli altri. È un diritto essere curati. Qui viene imposta la cura con la forza. C'è qualcuno di voi che sa che cos'è il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio? In Italia la legge afferma che una persona maggiorenne non può essere curata senza il suo consenso, a meno che non sia affetta da malattia mentale o da una malattia contagiosa. Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, è la forma prevista per imporre una cura ospedaliera. Per quanto riguarda la malattia mentale, il TSO viene istituito nel 1978 dalla legge del Sistema Sanitario Nazionale, che integra la più celebre legge Basaglia. In precedenza, per effettuare un ricovero obbligatorio, era sufficiente un'autorizzazione del medico. Adesso, invece, quando qualcuno, spesso i familiari o i conviventi del paziente, richiede un intervento urgente, il medico verifica la situazione. Le tre condizioni di legge previste per il TSO sono: 1. Che si sia in presenza di un'alterazione psichica grave, che renda necessari urgenti interventi terapeutici. 2. Che gli interventi proposti vengano rifiutati. E 3. Che non sia possibile adottare tempestive misure extraospedaliere. Se si realizzano tutte le condizioni, il medico può redigere una proposta di TSO, che deve essere a sua volta convalidata da un altro medico del Servizio Sanitario Nazionale. I due certificati medici, proposta e convalida, devono essere approvati dal sindaco o da un assessore. A questo punto il provvedimento va al giudice tutelare, che garantisce la correttezza della procedura. L'ordinanza che viene emanata consente l'intervento dei vigili urbani o, in caso eccezionale, delle forze dell'ordine per effettuare il ricovero, che avviene in un apposito reparto di psichiatria interno all'ospedale, denominato diagnosi e cura. Per noi di Psicoradio, che ce ne occupiamo da tanto tempo, almeno per me, se io chiudo gli occhi e penso al TSO, vedo persone legate al letto, persone portate via con la forza dai carabinieri, vedo la paura del TSO usata come minaccia in alcune situazioni da parte del personale contro, nei confronti di pazienti che stanno, per esempio, rifiutando una cura o qualcosa del genere. Come avrete capito, oggi parliamo di un tema molto delicato, ovvero la cura coatta, il curare una persona che non vuole essere curato. Di questo tema, del TSO in particolare, il trattamento sanitario obbligatorio, si parla di solito poco perché è uno strumento molto legato alla cura della salute mentale. Ed è uno strumento molto controverso. In questi giorni però se ne sta parlando molto, e se ne sta parlando molto perché il presidente della Regione Veneto, Zaia, e il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro, hanno chiesto di poter utilizzare il trattamento sanitario obbligatorio nella cura del Covid. E in questo momento il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato mandato agli uffici legislativi per cercare di capire se e come possa essere utilizzato questo strumento. Allora, io vorrei chiedere a Claudio, redattore di Psicoradio, che cos'è per lui l'idea del TSO? Se è qualcosa che lo rassicura, cioè che dice, vabbè, se starò malissimo mi porteranno a forza alla cura, o se invece è qualcosa che gli fa paura. Non solo non mi rassicura, ma so che è qualcosa di totalmente controproducente. Io non ho mai subito un TSO, ma in un momento di fragilità, in un momento in cui uno sta male, che tra l'altro è proprio una cosa che sto vivendo in questi giorni, anche in questo momento in cui sto parlando, cioè l'idea di subire un TSO sarebbe proprio come darmi il colpo di grazia. Che cos'è invece di cui avresti bisogno in questo momento e di cui potrebbe aver bisogno anche una persona che si accorge di avere il Covid ed è terrorizzata all'idea di farsi ricoverare? Avrei bisogno molto semplicemente di accoglienza, cioè di essere rassicurato dagli amici, alle persone care e di prendere un farmaco che mi calmi questo dolore. Una cosa è certa, chi ha subito molti TSO, anche avendoli ritenuti utili in momenti difficili della propria vita, comunque crede che siano difficili da accettare come strumento di cura. Ne è un esempio un'amica di Psicoradio che è venuta qui qualche anno fa, Annalisa, a raccontarci cos'era la cosa più brutta che le era rimasta dal TSO. Veramente il trattamento sanitario obbligatorio diventa un modo per non esercitare la propria professione come arte, ma semplicemente per La reprimere. professione dici di Medico, sì, medico? come arte veramente, ma semplicemente per reprimere e per non stabilirlo il dialogo. E poi il punto è che una volta che hai subito questo trattamento hai tu stesso una grande vergogna. Una grande vergogna di quello che ti è successo e finisci per non parlarne. Quando tu dici che chi ha subito un trattamento sanitario obbligatorio prova vergogna. Sì, perché è una persona che sente che si è fatto catturare, e si è fatto violare nella sua dimensione più intima. Le finestre di Psicoradio, la radio della mente.